America 24 di Mario Platero. In terms of the settings that we have, I think that there are some misperceptions. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Ranchos Palos Verdes, vicino a Los Angeles. Mario Platero, siamo arrivati alla fine di questo convegno sulla high tech. La voce che avete sentito è di Mark Zuckerberg, uno dei grandi eroi, o meglio, fino a qualche tempo fa lo era, adesso forse la sua immagine è un po' offuscata, uno dei grandi eroi, dicevo, di Internet. Perché? Beh, perché è il fondatore di Facebook, una di queste straordinarie storie americane. A 19 anni, nella sua camera del college dell'università, ha cominciato a scrivere dei programmi, a creare una piccola comunità per gli studenti, per i suoi compagni. Ebbene, questa piccola comunità è cresciuta fino a diventare una delle comunità più importanti del mondo. Ci sono oggi su Facebook 500 milioni di iscritti. Qual è il problema? Il problema è quello della privacy. E dunque, quando avete sentito poco fa Zuckerberg, parlava di misperception, di una percezione sbagliata nei confronti della sua società, della sua azienda. Non è vero che ha un problema di privacy. Lui dice che non è vero, molti, e devo dire io sono d'accordo coi molti, invece dicono che un problema di privacy c'è. Sentiamo di nuovo Zuckerberg. We recommended settings for people and we asked that everyone go and review their settings. Allora, come funziona Facebook? Beh, molti di voi sicuramente lo usano. Adesso parliamo di Facebook, ovviamente potremmo parlare di altri siti internet. Su Facebook ci si iscrive, si viene invitati e poi nel momento in cui si è creato il proprio file, diciamo così, si possono mettere delle fotografie, delle storie, si raccontano delle cose magari anche personali agli amici, gli amici possono entrare nel tuo file e leggere quello che tu scrivi oppure vedere le tue fotografie. Ci sono dei vari livelli, ci sono gli amici, ci sono i familiari, poi c'è un livello un po' più ampio e così via, così via. Ecco, il punto fondamentale di Facebook è che l'idea è quella di creare una comunità in cui tutti si fidano gli uni degli altri con il rispetto della privacy, cioè tu sai che i tuoi dati personali restano personali, al massimo li vedono soltanto i tuoi amici che hanno il diritto, perché invitati da te, di vederli. Ora, qual è il problema? Che attraverso una serie di diciamo manipolazioni, innovazioni tecnologiche ci si è accorti che avendo dati, informazioni, abitudini di 500 milioni di persone, beh, è uno strumento di marketing strepitoso. E dunque qual è la colpa di Facebook? È quella di aver inserito dei programmi che consentono, per esempio, a terze parti di prelevare alcune di queste informazioni che magari si pensava che fossero private e di trasmettere metterle ad altri. Ecco, questo è il vero oggetto del contendere, e nel momento in cui deve difendersi da questa accusa gravissima, perché va così alla radice di un rapporto di fiducia che dovrebbe esserci tra un operatore di un sito internet e l'utente, Zuckerberg dice: ma insomma, hanno tutti la possibilità di rivedere le procedure. È vero che ci sono delle procedure che consentono di aprire, però poi si va nella procedura e si può interrompere il flusso. Non è vero, perché molti dei giovani alla fine non lo fanno, non capiscono l'importanza della violazione di una certa privacy, non riescono a leggere il fine print, non riescono a capire il dettaglio piuttosto complicato che magari si cela dietro una nuova procedura, e dunque restano passivi. Questo è un problema su cui la comunità di internet, Steve Jobs primo fra tutti, è intervenuta. La privacy va difesa fino in fondo. The privacy settings have just become too complex, right? We build privacy into every single product that we... Ecco, sentite di nuovo Zuckerberg con la voce un po' agitata, un po' affannata. Devo dire, quando l'ho visto sul palco, a un certo punto, forse perché ha la coscienza sporca, e così ha cominciato a sudare copiosamente, goccioloni che li cadevano. Devo dire, uno spettacolo alquanto bizzarro. Perché forse ha la coscienza sporca Zuckerberg? Beh, perché dal suo punto di vista, così, lui parla di idealismo, del fatto che è importante abbattere delle barriere, che l'informazione deve circolare liberamente, dunque è inutile crearsi degli ostacoli. La missione deve essere quella di abbattere degli ostacoli. Quando rivedremo il passato ci accorgeremo che forse tutto questo dibattito sulla privacy era un dibattito del tutto inutile. Il problema è davvero idealista o invece è pragmatico? E dunque si rende conto che da una parte aprire significa portare più iscritti e dunque da 500 milioni magari in un paio d'anni riuscirà ad arrivare a 1 miliardo di persone. Non solo, ma avendo tutti questi dati, ovviamente aziende di marketing o semplicemente grandi produttori al consumo possono essere interessati ad avere dei modelli di analisi che gli spiegano qual è l'abitudine del loro consumatore potenziale e dunque una miniera d'oro. Ecco, e questa dicotomia tra così questo aspetto di realismo e quello che invece sembra essere una ragione vera di business che in qualche modo disturba, dà fastidio e avete sentito un po' frustrato Zuckerberg che dice ma insomma la privacy sta diventando una questione molto complessa, troppo complessa, forse stiamo esagerando. È vero, non è vero? Bene, di questo abbiamo parlato, parliamo con Gianluca Rattazzi che è il chairman esecutivo di Envivio, un'azienda che opera nel settore della trasmissione video da San Francisco, dunque un imprenditore dell'high tech italiano, al quale chiediamo proprio qual è oggi il problema privacy. Sicuramente c'è un problema di privacy con internet ed è anche un problema particolarmente difficile da risolvere, poiché le persone si iscrivono a tanti siti e ogni sito ha differenti problemi di privacy a cui le persone spesso non pensano. Inoltre differenti persone, e spesso dipende dall'età o dallo stato sociale o da altre cose, hanno requisiti differenti. Da un punto di vista etico, fino a che punto secondo lei è giusto aprirsi, rendere pubbliche le proprie informazioni oppure accettare che possano essere usate commercialmente e fino a che punto invece non lo è? È una questione soggettiva? Beh, Steve Jobs ha parlato esattamente in questo modo, dicendo noi chiediamo sempre all'utente, questo applicativo vuol mandare le tue informazioni a questo posto, sei d'accordo sì o no? Dipende cosa risponde l'utente, o bloccano o la fanno passare. Allora, rapide curiosità, abbiamo parlato di internet. George W. Bush, l'ex presidente americano, ha debuttato su Twitter e proprio Facebook si vede che non ha preoccupazioni di privacy. 77.300 amici. Maria Nera, un conto salatissimo per la British Petroleum, 69 miliardi di dollari. Il presidente dice noi resteremo qui sul Golfo a mettere le cose a posto quando gli altri se ne saranno andati. Altra curiosità, il ponte di Brooklyn sarà ristrutturato al costo di 508 milioni di dollari. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico, dove ancora mi trovo fino a domani e poi ci risentiremo lunedì dalla costa atlantica. Queste coste americane, diciamo, che vivono sì tempi difficili, ma restano pur sempre la nuova frontiera. Alcuni di questi approfondimenti continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il gruppo Wilco ha annunciato che vuole sponsorizzare due squadre giovanili di baseball, una a Chicago e una a Boston. Devo dire, un'iniziativa molto filantropica per un gruppo di cantanti, una rock band di Chicago che è diventata famosa in tempi recenti, nel 2002, con l'album Yankee Hotel Foxtrot, e dunque dedichiamo a loro la canzone del giorno, Wilco, You and I. What can we do when the words we use sometimes misconstrued? Well, I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen into. Bene, da Los Angeles, o meglio da Rancho Palos Verdes, dove mi trovo, è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.